Letture di Radio 24. Nel 1886 Mark Twain viene inviato per 3 mesi alle isole Hawaii dal Sacramento Daily Union, il quotidiano con il quale aveva iniziato a collaborare l'anno precedente. Lo scopo è quello di raccontare usi e costumi di queste isole, per cercare di alimentare il fascino esotico di un paese che i californiani ancora conoscevano poco, ma che stava diventando sempre più importante per gli scambi commerciali. Il suo reportage si compone di 25 lettere, nelle quali l'autore di Tom Sawyer descrive il paesaggio, il clima, le condizioni politiche e sociali delle isole, soffermandosi anche sulle curiosità e sugli aspetti antropologici. Se iniziate una conversazione con un estraneo a Honolulu e provate quel desiderio naturale di sapere su che genere di terreno vi muoviate e ne approfittate per scoprire che tipo di uomo è il vostro sconosciuto interlocutore, ecco, metteteci chiaramente una croce sopra e rivolgetevi a lui come capitano. Fissatelo attentamente e se vedete dalla sua espressione che siete sulla strada sbagliata, chiedetegli dove predica. Ci potete scommettere che potrebbe essere o un missionario o il capitano di una baleniera. Io finora ho personalmente conosciuto 72 capitani e 96 missionari. Capitani e ministri di Dio costituiscono metà della popolazione. Il terzo quarto è composto da comuni kanaka e mercanti stranieri e dalle loro famiglie. E il quarto dagli alti funzionari del governo hawaiano. E in tutto sono meno di 4 gatti. Ieri un estraneo, un tipo serio, mi ha incontrato in periferia e mi ha detto: «Buongiorno, reverendo. Predicate nella chiesa di pietra laggiù, esatto?» «No», ho detto. «Io non sono un predicatore». «Oddio, vi chiedo scusa, capitano. Spero che abbiate avuto una buona stagione. Quanto olio?» «Olio? Perché? Per chi mi avete preso? Non sono un baleniere». «Oh, le mie più sentite scuse, vostra eccellenza. Maggiore generale delle truppe reali, esatto? Ministro degli interni, probabilmente. Segretario della difesa? Primo gentiluomo di camera? Commissario al soglio reale? Sciocchezze, signore, non sono un ufficiale. Non ho alcun rapporto col governo. Benedetta la mia vita. Allora che briccone siete? Che briccone! E quale guaio vi ha fatto arrivare qui? E da quale fatto clamoroso provenite? Sono solo una persona comune, un modesto straniero, arrivato recentemente dall'America. Non un missionario, non un baleniere, non un membro del governo di Sua Maestà. Neanche un segretario della Marina. Oh cielo, troppo bello per essere vero. Dai, non sto sognando. Eppure quella fisionomia nobile, onesta, questi occhi obliqui, ingenui, la testa imponente, incapace di nulla. La vostra mano. Datemi la vostra mano, splendido derelitto. Scusatemi per queste lacrime. Sono 16 lunghi anni che bramo un momento come questo e... A questo punto l'emozione fu troppo forte per lui e svenne. Compatì questa povera creatura dal profondo del mio cuore. Ero profondamente commosso. Versai alcune lacrime per lui e gli detti un bacio materno. Poi mi resi conto di quanto fosse da poco e lo mandai a quel paese. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Mark Twain, Lettere dalle Hawaii, Cavallo di Ferro Editore, 304 pagine, 17 euro. Il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi ha risvegliato dal torpore i senatori a vita nominati lo scorso 30 agosto, che a fronte dei circa 13.000 euro mensili di stipendio a carico dei contribuenti, si sono finora distinti per assenteismo. Il record assoluto spetta all'archistar Renzo Piano. 0 presenze in Parlamento prima del voto su Berlusconi, come commenta Paolo Bracalini sulle pagine del giornale. Non si era mai visto Renzo Piano, archistar che il mondo ci invidia, a una votazione del Senato. 0 presenze, dice la sua statistica di Palazzo Madama. Ancora meno di Carlo Rubbia, anche lui senatore a vita per volontà di Giorgio Napolitano, che almeno 5 volte in 3 mesi il tasto l'ha premuto. Un po' più presente la scienziata Elena Cattaneo, ma sempre rarefatta come tutti i 4 nuovi senatori a vita. Abbado, 0 votazioni, sta combattendo con una brutta malattia. La presenza simultanea di Piano, Cattaneo e Rubbia per il voto sulla decadenza di Berlusconi, dunque, non poteva passare inosservata. Il primo a farla notare è stato il senatore della Lega Stefano Candiani. Siamo molto contenti di assistere a questo pienone di senatori a vita. Peccato non li avessimo mai visti prima, ad esempio per le votazioni su cultura, scienze, turismo, scuola o economia. Poi il turno di Forza Italia, prima con Bondi, vergognatevi, quindi a raffica il senatore Gasparri, che li paragona alle tricoteuse che assistevano alla ghigliottina, sedute in prima fila per non perdersi lo spettacolo durante la Rivoluzione francese. L'attacco di Gasparri non tocca tanto Rubbia, presente al voto sulla legge di stabilità della notte precedente, e tantomeno al senatore a vita Monti, che come membro di SC partecipa attivamente ai lavori, quanto Renzo Piano, in un crescendo. Piano, senatore a vita, recordman di assenteismo, guarda caso si presenta oggi per contribuire al vergognoso rito dell'illegalità. Che brutta figura. Quindi un'altra botta. Piano è stato forse impegnato finora nella costruzione di opere bellissime, ma qui non siamo come a Parigi ad ammirare la ghigliottina. Avrebbe potuto continuare a ignorare il mandato da senatore a vita. Quindi su Twitter. Come architetto, chapeau. Come politico, può lustrarci le scarpe, che sono impolverate. Oggi è venuto a vedere l'esecuzione. Gli mancano solo i popcorn. La risposta dell'archistar non si è fatta attendere molto. Sono abituato a essere attaccato dai costruttori cui non piace il mio lavoro. Essere attaccato da Bondi e Gasparri è sublime. Pura beatitudine. Rubbia, che con la Cattaneo si è iscritto al gruppo Autonomie PSI, invece ha fatto sapere di non essere minimamente toccato dalle critiche. Chiusa la vicenda Berlusconi, i senatori a vita possono tornare ai loro prestigiosi impegni in giro per il mondo. Saranno disturbati nuovamente, come successe per il governo Prodi, quando i loro voti saranno indispensabili. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Paolo Bracalini «Toh, spuntano i senatori a vita, presenti solo per l'esecuzione», da Il Giornale del 28 novembre. Caravaggio meglio del Prozac. L'arte contro la depressione in un progetto culturale rivolto alla terza età. Altro che sindrome di Stendhal. Presto dipinti e sculture saranno utilizzati come strumenti di benessere psicofisico per gli anziani. Una rivoluzione a basso costo per un paese come l'Italia, dove è concentrato un enorme patrimonio artistico e dove gli over 65 sono il 20,3% e, dice l'Istat, aumenteranno fino al 32% nel 2043. Rivoluzione immaginata da due studiosi, Pierluigi Sacco, ordinario di economia dell'arte allo IULM di Milano, ed Enzo Grossi, medico e responsabile scientifico della Fondazione Bracco. I due stanno realizzando un progetto di welfare culturale, mirato alla terza età, che potrebbe diventare europeo nell'ambito del programma di ricerca Horizon 2020, entrato ora in fase operativa. Le evidenze scientifiche ci sono. Lo stesso Grossi ha pubblicato 2 anni fa uno studio su 1.500 persone che dimostra una correlazione positiva tra il livello di salute psicologica e fisica e la partecipazione culturale, e molte altre ricerche vanno in questa direzione. Sacco, consulente di varie città europee, sta cercando le partnership necessarie e pare che i finlandesi siano entusiasti. La prima fase del welfare culturale esordirà nel progetto Siena Capitale Europea della Cultura 2019. Lo faremo nell'antico ospedale di Santa Maria della Scala, che oggi è un museo, spiega Sacco, ricordando come nello spedale medievale i malati fossero curati sotto affreschi stupendi. Gli anziani saranno accompagnati nella comprensione delle opere, poi verranno invitati a essere attivi e dipingere loro stessi. Un modo per combattere depressione e isolamento, che aumentano il rischio di malattie legate all'invecchiamento. Via il Prozac, fuori le tempere. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Giampaolo Cerri, Caravaggio è meglio del Prozac, da Panorama del 4 dicembre. Aldo Tagliapietra, storica voce delle orme, si racconta per la prima volta nella biografia Le mie verità nascoste, attraverso una serie di interviste raccolte nel corso degli anni da Omero Pesenti, Giampaolo Saccomanno e Gloria Tagliapietra, la figlia del cantante. Da queste pagine emergono i racconti della sua infanzia, l'amore per la sua città, Murano, la passione per l'India e per il sitar, il lungo percorso musicale, prima con il gruppo delle Orme e poi come solista. In queste righe, Tagliapietra spiega il suo punto di vista sul mestiere di musicista. Dondola, dondola, il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri. Un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Il muranese è sempre stato ed è tuttora un gran lavoratore e non ha mai usato alterigia nei confronti degli abitanti delle altre isole lagunari, nemmeno verso quelli della terraferma, come viene chiamata la zona prospiciente il mare, dove ad esempio sorge Mestre. Sento un forte senso di appartenenza a questo piccolo mondo. Gran faticatore anch'io, ma poco mercante, non del tutto incline a promuovere e fare business col proprio mestiere. Non siamo efficienti manager di noi stessi. Noi muranesi talvolta ci vendiamo poco e male. Non ci definiamo artisti, ma artigiani. Con la A maiuscola, certo, ma pur sempre artigiani. Anch'io sono un artigiano della musica, che produce soprattutto perché si impegna tanto. Non ricevo improvvise illuminazioni dalle muse dell'arte. Tutto quel che faccio è frutto di grande lavoro, sudore e fatica. La mia metodica è semplice. Mi applico quotidianamente al mio lavoro con costanza al pari di un operaio. Non mi è mai successo un caso come quello di Paul McCartney, che pare si svegliò con Yesterday nella testa e la buttò giù in 10 minuti. Neppure come quello che riguarda lo scopritore della molecola del benzene, che si dice ne abbia descritto la formula dopo aver sognato un serpente acciambellato, con la testa ritta in atteggiamento di sfida. Nemmeno come le storie di tante altre folgorazioni che hanno il sapore del miracoloso e che non sono del mio genere. Di musica ne ho scritta parecchia e ogni volta sono andato a cercarmela, sempre in questo modo. In un brano, del quale ho scritto musiche e le strofe del testo, c'è un verso nel quale mi riconosco tantissimo e che recita: se io lavoro è perché non so che fare. Se io lavoro è perché non so che fare. Confesso che non è tutta farina del mio sacco. Infatti questa frase mi fu suggerita da Maurizio Costanzo, dal quale in un'intervista avevo sentito affermare questo concetto. Ho fatto mia quella citazione e l'ho inserita nel testo della canzone «Se io lavoro», contenuta nell'LP delle Orme intitolato «Storia o leggenda». Istintivamente sarebbero per me già sufficienti la soddisfazione personale e l'apprezzamento altrui per ciò che scrivo. Se però, oltre che una passione, la musica è un'attività professionale a tutti gli effetti, allora non basta. Non può bastare per mantenere una famiglia. Compongo sempre con uno dei miei strumenti in mano e mai mentre faccio altro. Devo essere concentrato e gli spunti creativi per le composizioni mi sono talvolta suggeriti anche dallo strumento musicale che impugno di volta in volta. È sempre stato così e credo che quei legni e quei metalli assemblati da mani sapienti siano oramai intrisi della mia personalità e del mio modo di suonare, al punto che riescono a restituirmi quelle energie e vibrazioni delle quali ho bisogno per scrivere. Non riesco proprio a capacitarmi di come facciano coloro che scrivono musica senza saper suonare alcuno strumento. Uno degli strumenti essenziali del mio lavoro è senz'altro la mia particolare voce, che è stata sempre definita, dagli addetti ai lavori, un falsetto. Le mie corde vocali hanno questa caratteristica e a seconda che io parli o che canti, il timbro sembra essere quello di due persone completamente diverse. Durante il cosiddetto periodo cameristico delle Orme, andai a lezione dal grande tenore Mario Del Monaco per cercare di capire in quale modo usare al meglio la voce. Giusto per cominciare e per dimostrare come andava emesso il suono, lui mi cantò su due piedi la romanza «E luce alle stelle», uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma da dove proveniva quella voce? Non da una persona, anche se in stato di grazia, bensì da un iperuranio celeste, da un altro mondo. Rimasi basito. Ci si nasce con quelle doti e certamente poi si possono affinare con lo studio, con la tecnica, ma devono essere innate. Tanti sono i suonatori, molti meno i musicisti. Io mi accontento di quel che sono. La mia me- sta distesa, dove il sole è nascosto da enormi cartoni. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Aldo Tagliapietra, Le mie verità nascoste, Arcana Editore, 240 pagine, €19,50.